Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, le 8 e 20 minuti. Le 8 e 20 minuti di questo 17 marzo, il 17 è chiaro, poi finisce che poi in coppa non si passa sul 17. Sì, ti vedo anche tu sei allegro no, stamattina. Io sono... No. Io ho avuto, naturalmente, ho molti amici con i quali sono torinista. Ieri sera è stata una... Io devo ammettere, sul 3-0 il gol annullato, anch'io ho detto, beh, però così non si fa. Così non si fa. Poi, però, i tedeschi... Mai pensare che i tedeschi sono sconfitti. Sì, mai pensare. Io penso che lo pensavo, sono andato a dormire e mi sono svegliato. Ah, tu sei andato a dormire sul 2-0? Sì, ma sì, non l'ho neanche vista. Cioè, ero stanco, ero molto dicevi, stanco. Vabbè, ho detto, vabbè, brava, Juve, grande impresa. Lewandowski. Ha tolto le castagne dal fuoco. Lewandowski, le castagne dal fuoco. Però... quella decisione arbitrale va riconosciuto. Allora oggi San pazienza. Patrizio, non vi resta cari amici juventini che pregare San Patrizio, il grande patrono dell'Irlanda, tra gli altri santi oggi Sant'Agricola, San Gertrude, San Corrado di Baviera. Anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, cioè oggi nel 1861 Vittorio Emanuele II diventava il re d'Italia. E auguri a Giovanni Trappattoni, visto che siamo nelle... E perché oggi è il suo compleanno, grande, e a me è sempre stato simpatico. Giocatore, devo dire, grande devo dire giocatore la verità. Del Milan, l'allenatore della Juve. L'allenatore della Juve, poi con grandi contributi alla comunicazione anche del calcio, sì, in Italia Strunz, e in Germania. È giusto, allenatore anche del Bayern, appunto, Monaco. E quindi oggi mi sembra giusto fare gli auguri a Trappattoni. E io inizio la mia domanda dei giornali. Io non ho capito una cosa. Quando ho visto ieri questa decisione assunta da Fin, tu hai visto che Finmeccanica cambia nome. Ah sì? E diventa un maschio, diventa Leonardo. Hanno deciso di chiamarsi Leonardo. Ma davvero? Sì, lo so che sembra uno scherzo. Invece la Finmeccanica ieri ci dice che l'amministratore delegato ha assunto la decisione di chiamarlo Leonardo. Certo, immaginavo. Devi spiegarmi, perché io sui giornali stamattina ho cercato subito. Ma la reazione di Alfano, il gender, questo ragazzi, cambia sesso. Adinolfi. La Finmeccanica diventa Leonardo maschio. Marione invece non sono insorti. Alfano non è insorto. Quindi ne ho tratto c'è un messaggio subliminale. Sì, ne ho tratto una conclusione: che anche i più moralisti, i transex vanno bene se però restano dello Stato. Questa è la lezione. Vabbè, un po' di ironia, dai, però certo, adesso, un po' di ironia. Tra l'altro, 800 24 00 24. Oggi avremo Giorgia Meloni alle 8:40. State con noi, perché ci parlerà di questo straordinario show che sono diventate le amministrative, sai, che Libero le titola le stupidarie del centrodestra, no? Quanti sono i candidati? Tu hai perso il conto, c'è anche Tosi, adesso forse si candida. Vabbè, questa cosa di Tosi io credo che sia uno scherzo, ma è vera? È vera, è verissima. Ah, si candida Tosi? Sì, ma io ho fatto sentire anche l'audio, ho una parte di colpa. Ma perché... quindi forse anche Zaia, perché per dare una risposta... Ah. Certo. Salvini quindi contro Tosi e via. Comunque, avanti. Diciamo che i candidati del centrodestra a Roma sono Storace, Fini, Bertolaso. Per il momento fermiamoci qua. Fini, mi raccomando, no, anche Fini, perché tu. Siccome lo abbiamo letto tutti stamattina sui giornali, dare opinioni e così via. Bertolaso, Marchini è del centrodestra, Storace, possiamo considerare Marchini, sono almeno 4. Storace, Secettosi sono 5. Secettosi 5 e basta, basta. Basta è oramai lo slogan della ditta, lo dicono di se stessi, esatto, però ecco, esatto, per così dire, forse, chi lo sa, però forse è l'esplosione necessaria per una fase nuova, perché sai, alla fine il ventennio di Berlusconi per farlo finire voleva mai finire. Ci vuole lo Stato, è singolare che potrebbe succedere per delle elezioni amministrative. Però aspetta, di lì tutto comincia, ricorda, nel 93, quando non era ancora sceso in campo, ma Berlusconi con quello iniziò la fase del suo intervento politico quando Sdogano Fini, che era candidato proprio sindaco di Roma nel 1993. Quindi è una storia che dopo 23 anni lì comincia e lì si ripresenta sui colli fatali, come sì, si certo. dice. No, ci scrivono. E la Raggi non è di centrodestra, il Movimento 5 Stelle, no, c'è anche Giachetti allora per il centro-sinistra. Stavamo contando quelli del centrodestra. Solo quelli del centrodestra. Poi li contiamo a oggi, a questo momento, poi magari salgono di numero. Non esatto, esatto. Tra l'altro, caro Oscar, ma tu che faresti? Cioè, io vorrei fare due chiacchiere con quel dipendente della ASL di Avellino. Quello del dito. Che è stato immortalato da un video della Polizia di Stato, a fare il dito medio alla timbratrice dove deve timbrare il cartellino. Cioè, così, un dito medio. Secondo me è un dito medio a tutti noi, è un dito medio al cittadino, è un dito medio allo Stato, nel senso di noi cittadini. No. Ma che porcaccia la miseria, ma perché il dito medio? Toh, non timbro. Perché c'è il senso di questa impunità generalizzata. Però riflettiamo, cioè, prima solo di considerarli degli alieni, guardiamo i numeri. Cioè, solo nelle ultime due settimane, solo in Campania, ci sono state 200 segnalazioni alla procura di un ospedale in Ruggi di Salerno. Mm-hmm. Dopo un'indagine che alla fine dell'anno scorso aveva identificato 800 possibili violazioni, sempre solo in quell'ospedale, in un solo ospedale. In un solo ospedale. Un'indagine nata nel 2014 perché i dipendenti onesti nel 2014 erano andati in procura perché non si fidavano dei propri dirigenti. Certo. Dopo due anni, ma in un solo ospedale. Qui siamo in una ASL di Avellino e sono anche lì decine e decine e decine. Allora ricordate che tutto il 2014, sui 220 licenziati della pubblica amministrazione per motivi disciplinari, 99 erano quelli gli assenteisti. 99. Quando solo tra due un ospedale e una ASL della Campania siamo a 300. Quasi, ma capito? No, e allora capisci che il senso è tanto, potete dire quanto volete, ma non le applicate le leggi che ci sono. Ma d'altronde il vigile famoso in mutande, bravo, sul quale bisogna dire effettivamente c'è un po' di accanimento, la forza dell'immagine, no? Però oggi fa un'intervista a Repubblica e dice: maledette mutande, mi hanno perso il lavoro, ho perso la casa, maledette quelle mutande. Insomma, no, la questione è se avessi comunque fatto l'assenteista ma con i pantaloni non avrei rischiato quello che ho rischiato perché ero in mutande. Beh, un po' di gogna, diciamo, dal punto di vista della presa per il culo, diciamo, questa c'è sulle mutande. L'avesse fatto in pantaloni non avrebbe avuto la stessa forza comunque, mediatica. Siccome mi sono stancato di ripetere che le norme ci sono da decenni, non era necessario ogni volta cambiarle dicendole ho cambiate io perché prima non si poteva licenziare. Per esempio, di quelli dell'ospedale Ruggi, a 10 sono stati sanzionati, gli hanno dato la sospensione, mica li hanno licenziati come prescrive la legge. Chiaro. È questo che dà la certezza, il fatto che i dirigenti sono conniventi, perché i dirigenti sono i primi responsabili. In un ospedale non ci possono essere centinaia di assenteisti se non sono i dirigenti che chiudono gli occhi. Queste sono le cose. Quando ci sarà un intervento in cui per la prima volta si dice bene, adesso questi 100 licenziati, punto. Allora forse la gente inizierà. Comincia a capire. Mentre invece ti voglio sottoporre quello che ha fatto il sindaco di Gattinara, 8400 anime, famosa per il vino, provincia di Vercelli. Oggi lo racconta la stampa. Ha ideato questo sindaco il furbometro, che è una cosa un po' così spannometrica. Un po' troppo spannometrica. Però questo sindaco ha detto: chiedi di accedere ai servizi sociali del comune e io voglio sapere quanto spendi in sigarette. Sì, giusto. Sì, lo so. Hai o no la pay TV? Magari ti vedi la Juve perdere col Bayern. Fai i regali a tua moglie, ma che vuol dire? Perché non sto difendendo, sto spiegando quella che è la razza del provvedimento. Se tu hai questi che io considero evidentemente dei lussi, no? Non o dei vizi, come le sigarette, vai in vacanza, quanti weekend fai? Io non ti faccio accedere ai servizi sociali perché potresti utilizzare i soldi per la pay TV in un altro modo. Beh sì, è un po' moralistico, no, come giudizio. Adesso, lievemente. Su moralistico non dico nulla. Il problema è che lo Stato, dopo aver tagliato le risorse ai comuni e aver fatto loro aumentare le tasse locali, li sta trasformando anche, oltre che in esattori cattivi, anche in inquisitori cattivi. Io credo che i sindaci su questo cammino perderanno ulteriormente in popolarità. Perché lo dico? È un avvocato, questo signore. Non perché sia sbagliato il criterio. È giusto che se tu vuoi servizi pubblici devi rendere trasparente davvero il tuo reddito. Giustissimo. e i criteri che alla fine trovo discutibili. Però sai, questi chiedono di accedere ai servizi del comune, sì, del cioè comune, lui dice comune, i servizi comunali io li posso li devo dare a persone che hanno realmente bisogno. Capito. E se c'è la Pay TV magari potremmo discutere, cioè, no, certo Pay è TV, brutto entrare Pay in casa. Ho capito, ma dire... l'ISEE cosa l'abbiamo fatto a fare? Allora facciamo la psicopolizia locale, finiremo a vedere regali un paio di mutande a tua moglie. Infatti le sigarette. Che mutande gli hai regalato? Anzi, fammele vedere così scopriamo anche un po' allora, i gusti. Qui secondo me entriamo in una sfera che non c'entra con il giusto rigore, la trasparenza dei redditi, la lotta ai furbetti, perché per i TV, cioè se io del mio modestissimo anche hai reddito... troppe case! Ah! Usane una e vai in bicicletta al limite. Voglio dire, del mio modestissimo reddito voglio essere lasciato libero di decidere io come lo uso, senza dover rendere conto anche di quello. Se lo voglio utilizzare in caramelle o in cioccolatini. Ecco, io credo che invece lì siamo sul limite. Tu non sei d'accordo? No, ma io sono. Cioè, il principio è effettivamente molto opinabile. Il principio è questo: ti chiedono tutte le spese e le voci considerate superflue, fumo, viaggi secondo dei criteri. Sulle spese. Se è superfluo il comune ti chiede conto, come mai fumi così tanto? Effettivamente c'è un po' da psicopolizia. Tra l'altro, no, perché adesso questo lo dico, evitiamo a quei voci in chi ascolta. Per esempio, il fumo è più diffuso nelle classi di reddito basse e non c'è una causazione. Non sto dicendo fuma chi è povero, no, però c'è una correlazione. Quindi, per esempio, secondo me, assumere il fumo come spesa voluttuaria oltretutto ignora il fatto che invece nel comportamento di consumo non è così. Quindi è in questo che io sono molto è interessante, insomma, succede a gattinare. Sentite, noi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che abbiamo trovato la soluzione per inchiappettare lo Stato sul canone Rai in bolletta. Ah, attenzione. Perché? Per fare cosa? Esattamente. Inchiappettare. Perché la gara è tu inchiappetti me perché me lo metti in bolletta e io provo a fare. Sto scherzando, ma perché ragazzi, il decreto che è uscito su, per i gestori elettrici fa chiaramente intendere che chi cambierà il gestore elettrico a luglio, un mese prima che arrivi il canone in bolletta, vede per un anno rinviato il canone. Ragazzi, tutti via a cambiare il gestore, tutti cari inchiappettatori. La notizia su Italia Oggi, pagina 32, primo di luglio, track, tutti cambiamo il gestore, track. Anche il 30 giugno track. Va bene, ci chiamano intanto Michele da Verona. Buongiorno Michele. Michele, città del sindaco Flavio Tosi, no, è caduta la linea. Santina allora ci chiama da Bergamo. Buongiorno, noi che celebriamo i santi, abbiamo Santina oggi. Buongiorno, ascolti, io avevo fatto una domanda sola, però ne avrei due. La prima, che non c'entrano niente fra loro, però la prima è: non possiamo noi cittadini fare una class action tutti assieme per dar contro a tutti gli statali che non lavorano, che ci fanno il dito? No. Non lo so, tecnicamente qualcosa... non si può protestare, dal punto di vista tecnico. Però io pago le tasse, con le tasse che pago io loro vengono pagati. Lo so, ci si può arrabbiare, possiamo denunciarlo tutte le volte che succede, ma la class action... Però poi non li licenziano. Lo so. Santina, siamo scorati quanto lei. Quando... Guardi Santina, le ricordo solo il titolo del Fatto Quotidiano di oggi. Chi danneggia e deruba lo Stato si tiene due terzi della refurtiva. Sono le cifre della Corte dei Conti: su 646 milioni di sanzioni se ne recuperano solo 200. Quindi... No, dispiace deluderla, però tecnicamente lo strumento per la class action non c'è. L'altra domanda? Allora, su quel ragazzo, su quei due ragazzi che hanno ucciso il ragazzo a Roma. Sì. Le pedate nel sedere non si danno quando è successo l'omicidio, si danno quando i bambini hanno 1, 2, 3 anni, perché la pianta si raddrizza da piccola, non quando ha già 20 anni. Veramente, 30. Veramente si può raddrizzare senza pedate nel sedere, questa è la mia opinione, non so se Oscar, anche tu... Condivido. Però lei, Santina, pedate nel sedere, ma fisiche lei dice o... Sì, no, fisiche proprio. No, proprio lei, proprio pedate. Sì, no. Forse perché io ne ho prese tantissime da piccole e mi hanno raddrizzata. Io bene. Pure, no, devo dire la verità. Io non ne ho mai prese, ringrazio i miei genitori non avermi aiutato. Troppe e forse non mi hanno aiutato, sì, ma forse erano meno un po'. Però io, sentite, sono curioso, in questo caso parlo anche da genitore. E a 1, 2, 3 anni lei è convinta che si possa identificare tutto ciò che quel grumo di contraddizioni pazzesche che esplode in quei comportamenti che abbiamo visto a Roma? Non lo so. Forse sì. Però... Sì, però ogni tanto un bel ceffone ci vuole, perché io vedo bambini che danno del cretino, della cretina ai genitori, al nonno, Il mio non si è mai permesso, perché al primo schiaffo che gli fosse arrivato gli avrei rotto il naso, cioè sinceramente. Diciamo, il cretino, ecco. Ai nonni, ai genitori, si parte dal cretino. Diciamo, Santina, magari io smusserei un po' lo scapaccione, ecco, magari può succedere, perché l'idea di spaccare il naso a un bambino non è il massimo della vita. Però Santina, però il messaggio è chiaro. Santina dice è figlio del fatto anche che c'è una rendevolezza generale, lassismo totale, e alla fine, ecco. Su questo Santina ha ragione, potremmo aprire un dibattito, anche se non è proprio le nostre tematiche, ma il rapporto genitori e figli. Caro Oscar, però dobbiamo andare un attimo in pubblicità, perché avremo Giorgia Meloni tra un attimo, candidato sindaco. Benissimo. A Roma. Giorgia Meloni, sai che mi ha sposato? In che senso ti ha sposato? Ma certo che lo so, no, certo che lo so. Devo ammettere il conflitto di interessi in pubblico. Non so, ascoltatore. Ti ha sposato nel senso, spieghiamo, sposato, non è che Giorgia Meloni è separata. Matrimonio in Campidoglio, quando mi sono sposato era Giorgia Meloni ufficiale. Ha celebrato il matrimonio civile, sì, certo, certo. Quindi, no, perché sai che mi ha sposato sembrava un po'... Ah no, come molto... No, no, questo no, lo sa. No, Dio mio, non mi ha sfiorato. Hai ragione, però, c'è la possibilità. Sai che mi ha sposato in una vita precedente. Non era una rivelazione di questo tipo. No, tra poco. Tra poco. Siamo qua, sono le 8:39 minuti, caro Oscar Giannino. Tra poco avremo Giorgia Meloni ai microfoni, di nostri, candidato sindaco di Roma. Intanto diamo la parola a Roberto da Grosseto. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Buongiorno, sì. Il mio commento è il seguente, cioè gli assenteisti sono tali perché possono permettersi di assentarsi dal loro posto di lavoro. Se uno ha delle mansioni precise da fare e del lavoro da svolgere, poi assentarsi diventa impossibile. Cioè gli viene data la possibilità, insomma, gli viene concessa questa possibilità. No, mi è concessa, cioè non hanno lavoro da fare. Cioè io nella mia azienda, cioè l'azienda del lavoro, se mi assento, il lavoro che io devo fare non lo fa nessuno. Le persone fondamentalmente non hanno lavoro da fare, quindi è un problema, ecco, di organici. Sì, sono troppe. Esatto, sono troppe. Loro si lamentano di essere pochi. Allora, ma è chiaro. Roberto, comunque, insomma, ci ha dato questa analisi interessante. Torneremo in questi giorni. Comunque, abbiamo con noi Giorgia Meloni, candidato sindaco a Roma. Buongiorno, Meloni. Salve, buongiorno a voi. C'è qui anche Oscar Giannino che ricordava, buongiorno. Prima ha detto che l'ha sposata, ha detto nel senso. Sì, nel senso, io ho sposato Oscar, sì, certo. Giannino, ma nel senso, no, come nel senso che felice, è officiava la cerimonia. Nel senso buono, evitiamo di aggiungere. Nel senso buono, stia tranquillo. Perché poi qualcuno mi disse a un certo punto: ma tu non eri sposata con Oscar Giannino? No, assolutamente no. Accade anche questo. Però Giorgia Meloni, insomma, intanto ci deve dire, ma è lei che però ha cambiato idea per prima, perché è come le hanno fatto notare anche in modo un po' brusco, un po' di uomini, da Berlusconi a Bertolaso, era lei che aveva detto: sono incinta, non posso fare la campagna elettorale. Perché ha cambiato? Allora, idea? No, si può tentare di dire tutto, ma io non sono una persona priva di coerenza. Poi certo, se la stampa mondiale racconta di telefonate mai esistite, leggo stamattina una surreale ricostruzione di Tommaso Labate della telefonata tra me e Berlusconi, perché qui ormai non c'è stata, ma non c'è assolutamente, non è neanche lontanamente detto quello che scrive Tommaso Labate, perché noi abbiamo anche un problema comunque di un giornalismo che letteralmente si inventa le cose. Io ho sempre tenuto la stessa identica posizione, e cioè gli alleati mi hanno chiesto in più di un'occasione: Giorgia, candidati tu. Disponibilità che io ho dato all'inizio, quando non sapevo di aspettare un bambino. Quando ho scoperto di aspettare un bambino, poiché mi sarebbe piaciuto, diciamo così, godermi i mesi della gravidanza, non so esattamente cosa mi aspetta, insomma, no, ho avuto prudenza e ho detto: signori, fermi tutti, la mia candidatura la consideriamo una ratio estrema, cioè l'ultima possibilità. E questo sta in dichiarazioni che voi trovate ovunque, sì. Ogni giorno ho detto la stessa cosa. Cerchiamo insieme un candidato che possa farci vincere ed essere competitivo. Sono disponibile a dare una mano a cercare ovviamente questo candidato. Silvio Berlusconi a un certo punto fa il nome di Guido Bertolaso. Guido Bertolaso secondo me ha un ottimo curriculum, è una persona che io non conosco personalmente, aveva, diciamo così, qualche difficoltà sicuramente, ma insomma che si poteva affrontare in campagna elettorale. Mettiamo in campo Guido Bertolaso. Tutti sanno, e Guido Bertolaso lo può confermare, che io ho lealmente fatto campagna elettorale per Guido Bertolaso. Anzi, aggiungo, sono stata l'unica, perché in Forza Italia non ne ho vista di gente che faceva la campagna elettorale per Bertolaso. Ma ci sono stati i problemi con la Lega. È cominciato a tirarsi indietro e a dire che Guido Bertolaso non andava. Dopodiché c'è stato un altro problema, e cioè che andando avanti nei giorni della campagna elettorale io ho dovuto riscontrare che Guido Bertolaso, che pure, ripeto, è un'ottima persona con un ottimo curriculum, non, come posso dire, non bucava. Non funziona. Un po' lui, ma insomma è anche normale per una persona non abituata a fare politica, ha sbagliato qualche dichiarazione, poi qualcuno l'ha pompato, insomma le cose non sono andate bene. Quindi, e quindi è arrivata l'estrema razio. E quindi io ho detto, signori scusate, vi ho sempre detto, qui non si arriva al ballottaggio, ok? Noi non arriviamo al ballottaggio. Ora, ai leader di Milano può non fregare di che cosa accade a Roma. Io sono di Roma e a me interessa. Io qui non voglio perdere. Regali a Renzi non ne faccio. Movimento 5 Stelle non lo considero francamente affidabile. E quindi, secondo me, non diciamo, si vince, tra ma... non arrivare al ballottaggio e candidarmi io, preferisco candidarmi però io. Però Meloni, dato questa disponibilità. Mi scusi, non è che non si vince così, cioè con 5 candidati, forse 6 se c'è anche Tosi. Cioè, forse è così che non vince il centrodestra. Ma questo intanto lo vedremo, guardate. Io francamente penso che poi la gente sia più sveglia di quanto si pensa. Penso che la gente riconosca un candidato che può vincere e ben governare, e quindi staremo a vedere se poi abbiamo perso matematicamente oppure no. Ma spero ancora, nonostante gli insulti che volano proprio, perché sì, negli ultimi giorni anche da parte degli, anche secondo alcuni alleati, il campione della candidatura a Roma, sono diventata il peggio del pazzo, ma questo lo metto in conto. Tanto cosa spera, non è invece, spero che si possa ancora ricucire, cioè che siano gli altri a essere coerenti, cioè che si ritiri rispetto Bertolaso, a quello che hanno sempre detto. Che Bertolaso possa fare un passo di lato, ho detto a Guido Bertolaso, mi farebbe piacere ovviamente insomma averlo al mio fianco, perché è una persona che appunto ha un diciamo un problema di empatia, però sicuramente il suo curriculum è una cosa che non potrebbe che essere utile in una qualunque amministrazione. Che Berlusconi capisca che la battaglia sulla leadership del centrodestra, della battaglia sulla leadership del centrodestra, non frega niente a nessuno. A me proprio non me ne potrebbe fregare di meno. Per cui le impuntature per poter dire sono io che comando. Forse a Salvini poi se sì, perde, però chi se ne frega. Forse a Salvini. Ma Salvini è un problema suo, eventualmente di Salvini. Io mi chiamo Giorgia Meloni, sono romana, mi candido sindaco a Roma e di questo vorrei parlare. Di che futuro stiamo dando alla capitale? Ci dica cosa ha detto Berlusconi allora, però, nella telefonata di ieri, visto che non ha detto quello che dice Tommaso Labate. No, ma non ha detto niente di che. Io gli ho comunicato la scelta che stavo facendo. E lui l'ha presa quindi bene. Sì, non mi ha detto niente, ma io gli ho detto, guarda, Berlusconi, io sto facendo questa scelta, la sto facendo per queste ragioni, delle quali tra l'altro abbiamo parlato in più di un'occasione, perché non è che io non avessi segnalato ancora prima delle gazzebari a Berlusconi che questa vicenda di Bertolaso, diciamo così, si stava mettendo un po' malino e che rischiavamo insomma di regalare Roma alla sinistra o al Movimento 5 Stelle. Io ho preso questa decisione. Del tema delle leadership eccetera non me ne potrebbe fregare di meno, spero che si possa Spera che Bertolaso faccia il passo di lato. E lui che ha detto? E lui non ha detto né sì né no. Lui non ha detto va vediamo, c'è tempo, vediamo. Quindi voglio dire, Io apprezzo molto che Meloni, come è giusto, eviti di dire una cosa, caro Alessandro, siccome però perché i giornalisti noi per primi l'abbiamo detto, cioè quanti abbiamo avuto scritto e detto l'impressione che scendendo Bertolaso Berlusconi avesse fatto la scelta di perdere dicendo a Renzi oh chiaro che io qua ho un candidato. Non è la stessa cosa di Parisi a Milano, no? Cioè il patto mentre del sono Nazareno in corso trattative per le sue imprese, le solite storie. Adesso non mettiamola solo sulla faccenda la Meloni che rompe la disciplina che non c'è. No, non so, lei pensa, perché, lei pensa scusate, così, aggiungo Meloni. Un elemento, scusate, aggiungo un elemento di riflessione. Poi, cioè io non sto mettendo per esempio in discussione il sostegno di Fratelli d'Italia a Stefano Parisi, Forza Italia dovesse non sostenere me, cioè chi è il responsabile tra i due? Il responsabile chi è? Io più di mettere la mia disponibilità in campagna elettorale, nonostante la gravidanza, per provare a vincere, sostenere i candidati che mi convincono anche di Forza Italia, seppure Forza Italia dovesse dire che non sostiene me, chi è che sta tenendo la questione di principio e chi è che ha a cuore il risultato di queste elezioni? Però non so se ha letto i giornali oggi, Bertolaso, Repubblica, meno male, mi sono liberato di compagni di viaggio imbarazzanti. Oggi, Repubblica, così, dice ma di guardi, lei. Purtroppo anche, sempre rimanendo in tema di giornalismo, cioè poi insomma, beh, un'intervista, non l'ho ancora letta, vi dico la verità, però insomma Repubblica, non più tardi di ieri, riportava delle dichiarazioni mie completamente inventate, anche Repubblica. No, vabbè, ma questa è un'intervista, diciamo, credo che l'abbia detto. Mi prendo un po' con le dopodiché non so di chi parli, Guido. Bertolaso non credo che parli di me, sarebbe Salvini, molto incoerente se parlasse di me, perché a me ha detto sempre tutt'altro, insomma, no, quindi siccome non mi sembra una persona così, ha detto anche che deve incoerente. Fare la mamma, ma le ha dato fastidio, guardi che qui 2 giorni fa ha detto se fossi il marito, poi lei non è sposata, se fossi il marito proprio mi preoccuperei per lei, secondo me ha aggiunto un'altra battuta sgradevole, sì, insomma ha aggravato la situazione, cioè le ha dato fastidio. Fortunatamente ho un compagno nato in questo millennio, diciamo così, che quindi non si mette lì a spiegarmi e non ha la pretesa di spiegarmi che cosa posso e non posso fare, come credo non debba fare nessun uomo nei confronti di una donna. Eh no, se lo tenga stretto, perché pare che gli uomini di altro tipo abbondino. Esatto, invece in Italia. Infatti me lo tengo assolutamente stretto. Cioè, per esempio, giusto per andare nelle cattiverie, Berlusconi che avrebbe detto di lei, ma ha fatto solo la babysitter a casa di Fiorello come altro lavoro, maestro di eleganza. Vabbè, io guardi, anche questa, diciamo, la attribuisce la stampa e quindi io non voglio credere che si arrivi a un livello del genere. Io sono giornalista professionista, di lavori ne ho fatti a decine, certo mi mantengo da quando studiavo, non me ne vergogno, ho fatto i lavori più semplici che si potessero fare, perché quando non hai, diciamo, non sei particolarmente facoltoso di famiglia, te la devi cavare in qualche modo, e penso che sia anche questo che mi aiuta a essere una persona che capisce i problemi della gente comune invece di stare chiusa nel palazzo solamente a occuparsi delle beghette. Però di ecco, però escludo che Berlusconi abbia davvero fatto una dichiarazione del genere. Facciamo una riflessione, perché Berlusconi le dichiarazioni, Giorgio, Berlusconi le dichiarazioni che tutti i giornali riportano, che con la punta di, come ovvio, sta storto, sta arrabbiato, però quando lui usa la frase sono ex fascisti, che è quella che sta dando in passo a tutti i giornali. Che oggi è sui titoli, allora, lì c'è una riflessione da fare, però, perché la riflessione è che a Roma nel 93, quando Berlusconi sdogana, Fini candidato di destra, Fini ancora intoccabile, inizia la lunga storia del centrodestra. E a Roma questa storia 23 anni dopo torna con lui che dice ex fascisti. Non c'è una riflessione anche probabilmente su un ciclo che finisce, Giorgio, da fare? Ma a me pare, Oscar, che voglio dire, io vengo da una comunità, da una realtà politica per la quale ho imparato che quando uno non sa veramente che cosa dirti, ti tira fuori la carta del fascismo. Mi pare che sia anche, insomma, questo il caso, ma non lo dico solamente se di Berlusconi, lo dico anche, insomma, perché leggo stamattina i giornali e già siamo ripartiti con tutta la trafila del sciarpame, dei bracci tesi, il fascismo, di tutta l'intelligenza di sinistra tipica che, avendo paura che tu possa fare il risultato a Roma in solitudine, perché poi voglio dire io giro per i mercati della capitale invece di leggere i grandi editoriali dei grandi editorialisti. No, infatti Aiello sul Messaggero ieri diceva adesso, guardate che la Berlusconi può essere Aiello ieri, la Berlusconi è terrificante, bisogna che io dopo 20 anni mi devo sciacquare la testa. No, siccome alcuni, poi diciamoci la verità, perché le persone poi scrivono una cosa e te ne dicono un'altra, no? Cioè il pubblico dice una cosa e poi in privato te ne dicono un'altra, perché ognuno ha il suo editore, quindi ovviamente deve scrivere quello che scrive. Però siccome adesso c'è il terrore che la Meloni quasi quasi da sola possa fare il risultato a Roma, allora adesso ti tireranno fuori tutta la trafila appunto del fascismo nelle redazioni dei giornali. Adesso ieri si sono riuniti in alcuni quotidiani per dire allora bisogna mettere in moto la macchina, esatto, del fango con la Meloni. Ma che ci inventiamo però con la Meloni? Però che lo dica Berlusconi vuol dire, sì, proprio che è finita una storia. Senta, tra tutte le dichiarazioni su Meloni mamma e l'han tirata dalla giacchetta da tutte le parti, ce n'è qualcuno che le ha dato più fastidio delle altre? O questa vicenda se la mette alle spalle? Ma no, ma io guardi, non mi dà fastidio, nel senso che io certo c'è anche questo nella scelta che ho fatto, ma più per rispetto alle tante donne che fanno cose straordinarie mentre sono incinte, mentre diventano mamme in condizioni decisamente peggiori della mia, insomma, che è anche un segnale nei loro confronti. Mi dà fastidio quando tirano in ballo il mio compagno, questo sì. Giornalisti che hanno provato a intervistarlo per fargli dire che io sto facendo una cosa sbagliata. Cioè, voglio dire, ma alcuni sostengono che la sua idea di rita dalla Chiesa nascesse da lui. Questa è la cosa che gira. In conclusione, questa di rita dalla Chiesa, no, guarda, l'abbiamo capita no, poco. È assolutamente falso. Rita dalla Chiesa è un nome sicuramente che aveva dei profili interessanti, è una delle tante ipotesi e delle tante idee che ci sono venute in mente, che in realtà non abbiamo mai lanciato perché era tutta da verificare, però è uscita la notizia su Dagospia da ambienti, credo, non so, vicini alla stessa Rita dalla Chiesa, perché noi non avevamo neanche verificata con lei questa disponibilità pienamente. Quindi è uno dei tanti nomi di cui si è chiacchierato. Sì, okay, poi sì, a me certo. viene attribuito il lancio di Rita dalla Chiesa al sindaco di Roma, ma le cose non stanno così. Però, a me di Rita dalla Chiesa piace, che è una persona popolarissima, che si è occupata comunque sempre dei problemi delle persone, che ha un cognome che in una città che il cui simbolo è diventato Mafia Capitale, il nome del generale dalla Chiesa è un nome che... Beh, ti lascia allora, capire certo. subito che cosa vuoi allora, fare. Giorgia Meloni, ecco, di cosa vorrà fare ne parleremo una prossima occasione, perché qua ci dobbiamo fermare e parleremo dei programmi. Quando finalmente ci dica solo se da sindaco dovesse essere sindaco, come bisogna chiamarla? Sindaco, sindachessa, sindaca? No, sindaco, abbiate pietà di me. Sindaco e di donne ci occupiamo in maniera seria, per esempio affrontando il tema degli asili nido. Io voglio essere chiamata sindaco e vorrei essere un sindaco capace di aiutare le donne seriamente. Ma di programmi ne parleremo con tutti, ovviamente anche con lei. La ringraziamo per essere stato con noi, Giorgia Meloni. Grazie, candidato sindaco per il centrodestra. Forza, abbracci Giorgia. Allora, niente, ci dobbiamo fermare qui. Ci dobbiamo fermare qui. Io compulserò che Alfano deve reagire al transgender come Leonardo, per coerenza. Questa la vado a cercare anch'io. Leonardo. Per coerenza, va bene, no. Va bene, dai. Ci sentiamo, a presto.